Summertime di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, benvenuti di nuovo a Summertime che come al solito sarà con voi per tutto il mese di agosto. Alle 16 ci ritroviamo per vedere quali sono gli spettacoli in scena in tutta Italia. Buongiorno quindi e oggi partiamo con uno spettacolo che è già in scena al Globe Theatre dal 19 luglio ma prosegue fino al 5 agosto, ricordando che oggi è lunedì, quindi c'è una pausa di riposo, però uno spettacolo che sta avendo molto successo per la regia di Riccardo Cavallo, Falstaff e le Allegre con Mary Dean Windsor. E indovinate un po' chi è Falstaff? Un bello del nostro cinema, un bello del nostro teatro, Ugo Pagliai. Allora diamo il benvenuto a Ugo Pagliai in Falstaff. Noi ci sembra un po' strano perché Falstaff è un grosso uomo, un po' lei è sempre stato conosciuto come un attore molto sofisticato, un bell'uomo. Quindi come riesce Ugo Pagliai a interpretare Falstaff? Ma prima di tutto, cioè, questa è una volontà di Gigi. Gigi mi ha sempre detto che così avevo lo spirito giusto per fare questo personaggio. Naturalmente il fisico non è quello di Falstaff, però il fatto di avere questa pancia enorme, di essere grasso, così rende, diciamo, un personaggio completo, un personaggio quasi universale, no? Quindi mi ci sono buttato con molto impegno e profondità, cercando di far sorridere e naturalmente con il trucco, con una pancia finta, quello che tutto sommato mettono tutti gli attori. Non dimentichiamo che anche Keane fece Falstaff, quindi non è solo ad appannaggio di persone che abbiano le physique du rôle, per così dire, però basta lo spirito e basta anche la disponibilità e la disposizione per cercare di tirar fuori dal personaggio tutto quello che il personaggio può dare. Naturalmente dà tantissimo, io mi accontenterei quasi di portarne il 50% fuori, ma insomma vediamo un po' come va a finire. Ecco, una delle commedie più riuscite di Shakespeare, malgrado poi sia stata scritta in pochissimi giorni e poi sia uno dei pochissimi lavori di Shakespeare che è stato un po' commissionato dalla regina Elisabetta proprio per l'amore di questo personaggio che rappresenta un po' l'essere sbruffone, l'animo popolare inglese, no? Sì, questo è vero, l'animo popolare, però è anche la fragilità e la forza dell'essere umano. Sì, la regina naturalmente, vedendo l'Enrico IV di Shakespeare, rimase colpita da questo personaggio, il quale è l'antieroe per eccellenza, perché per quanto possa essere sbruffone, per quanto possa essere un vanitoso, così poi naturalmente si nasconde al vero pericolo, cioè salva la pelle, cosa più importante, quindi è un po' l'antieroe. E naturalmente questa commedia, Le Allegre con Mary di Windsor, è stata un pochino riadattata, nel senso vengono tolte alcune parti, diciamo, che non hanno molta presa sul pubblico, ma arricchendole, diciamo, con battute e con situazioni proprio dell'Enrico IV di Shakespeare. Quindi è un po', ecco perché il titolo non è più Le Allegre con Mary di Windsor, ma Falstaff e le Allegre comari di Windsor. Quindi è un personaggio molto più complesso, insomma, la malinconia di cui si porta dietro il personaggio viene messa più a fuoco e certe parti, diciamo, che così venivano non dico tralasciate, ma insomma superficialmente trattate, qui hanno veramente uno spessore, una profondità diversa, insomma. Comunque il personaggio è quello, il personaggio è tutto sommato è uno che fanciullescamente si butta in queste avventure, in questi scherzi che loro gli fanno, che lui con buona fede cerca di vivere e di portare a termine, anche perché è un uomo che non ha mai soldi, come tutti gli uomini spendaccioni, insomma, ecco. Quindi il suo anche se lui si autodefinisce un leale, un valente, un tenero e un gentile, ci sono anche altri aspetti naturalmente che fanno parte dell'essere umano, che naturalmente sfioreranno questo personaggio. Comunque è un personaggio veramente straordinario, un personaggio che spero possa divertire, perché indubbiamente il punto culmine fondamentale è quello di divertire il pubblico, ecco. Ecco, quindi una rivisitazione di quello che è proprio il testo invece base. Voi siete in costume, rispettate questo sì, al Globe, oppure avete fatto un adattamento più moderno? No, l'epoca non è quella medievale, quindi è un'altra epoca, è una cosa un po' inventata, ecco, insomma deve parlare un po' a tutte le generazioni, non una sola, ecco. Quindi il regista Riccardo Cavallo, insomma, ha ritenuto opportuno appunto fare queste differenziazioni, insomma, ecco. Quindi poi vediamo, perché ancora stiamo veramente un po' con l'acqua alla gola, ma indubbiamente stiamo pensando a costumi, a parrucche o a qualcos'altro, insomma. Quindi indubbiamente sì, è un testo che è un po' adattato, indubbiamente. Sa, se uno vuol mettere il personaggio di Falstaff, dell'Enrico IV, che poi noi sappiamo che nell'Enrico V il personaggio muore, perché quando il principe diventa re lo abbandona e lui credeva di avere ancora delle chance per poter vivere la propria esistenza, invece si rende conto che è finita per lui la vita, e quindi malinconicamente se ne andrà. Ecco, un'ultima cosa, possiamo definire Falstaff anche un pochino un emarginato, no? Della società, anche perché viene preso in giro per questa sua ciccia strabordante, malgrado lui la porti con orgoglio. E la battuta, il momento che per lei ci fa capire che ci sono due livelli, uno un po' più sbruffonesco, più comico, e l'altro, come al solito, anche in una commedia, in Shakespeare c'è un momento di profondità. Certo, sì, ma questo è seminato un po' in tutto il lavoro, ecco. Naturalmente il rapporto che lui ha con i suoi servitori, che sono dei banditi, tutto sommato, parla anche con molta violenza, insomma, mentre invece con le donne è molto, molto scherzoso, molto, molto amabile, e naturalmente lo prendono in giro, ma forse lui lo sa o forse non lo sa, ma la cosa non gli interessa molto. L'importante è vivere giocando, e la vita è un gioco, insomma. Dice alla fine, dice, condannare il povero John Falstaff, non il povero, condannare John Falstaff, il vecchio John Falstaff, è come condannare il mondo intero. Ecco, questa è una è una battuta, diciamo, chiave, insomma. Quindi naturalmente molti aspetti dell'uomo che vive ci sono in Shakespeare, e soprattutto in John Falstaff. Allora, quindi una nuova sfida per Ugo Pagliai in Falstaff, con una pancia chiaramente un pochino posticcia. Noi la ringraziamo, allora, di nuovo, ricordiamo il Globe Theatre, e ci sarà, voi sarete in scena fino al 5 agosto. Fino al 5 agosto. Sì, grazie. Ve lo prendiamo tutto il caldo. Ve lo prendete tutto. Grazie infinite, buongiorno. Grazie a lei, buongiorno. Adesso noi andiamo a Pietrasanta in concerto, il violino in tutte le sue espressioni. Si chiude oggi una rassegna importantissima al Festival Internazionale di Musica. Direttore artistico Michael Gutmann a Piazza del Duomo, Pietrasanta, Lucca. Buongiorno Michael, com'è andata? Che cosa avete proposto quest'anno? Ma siamo molto felici, perché abbiamo avuto già tre grandi violinisti. Parliamo di Salvatore Accardo, famoso, e Vadim Repin, il russo grandissimo, Nigel Kennedy, poi tanti artisti, tutti felici, pubblico presente. siamo molto felici del successo di quest'anno e stasera per finire in tutta con molto tante bella musica anche l'orchestra di Bashmet, i solisti di Mosca. Ecco, ma perché avete scelto questa retrospettiva sul violino in tutte le sue espressioni? Che cos'è il violino di più degli altri strumenti? Ma non lo so se sono qualcosa di più, sono in stazione qui, però è io sono proprio violinista anche, ho amici, tanti amici violinisti e posso dire che il violino sia un strumento classico che popolare e che come fa il jazz, Nigel Kennedy, come fa anche la il klezmer, si può fare tante musiche con il violino. E quest'anno Buddy Breppin, un virtuoso e un grande amico mio, Salvatore Accardo, che conosco da tanti anni, e finalmente l'abbiamo qui avuto in Pietra Santa, perché è difficile da una star, una leggenda, possiamo dire. E niente, anche il violino sono tre concerti, però abbiamo avuto anche grandi solisti anche per il violoncello, come Natalia Gutman, che ha lo stesso nome però non è famiglia. E il violino è l'strumento diabolico, magico, che tutti, specialmente un strumento italiano con la tradizione di Stradivarius, Paganini, fino adesso, fino a Cardo. Ecco, voi fate sempre questo festival che mischia un po' di cose, no? Perché andate da Mozart alla musica klezmer, insomma non è mai un festival così definito di musica classica o di musica popolare, volete spaziare? Sì, ma abbiamo sempre avuto già, abbiamo fatto questo festival già 6 volte, la sesta edizione, e abbiamo sempre avuto 1 o 2 concerti di, come si chiama, musica del mondo, perché penso che la mescla con la musica classica, il mix con la classica e la musica del mondo va proprio molto bene, forse anche meglio che con il jazz o altri tipi di musica. E l'anno scorso abbiamo avuto tango, abbiamo avuto già la musica cigana, jazz, come il big band, è vero? E quest'anno per la seconda volta abbiamo il klezmer, un gruppo di Basilea, che ha piaciuto tantissimo. E c'è la virtuosità, possiamo dire, della musica classica dentro questa musica, con tutta la libertà e l'improvvisazione anche della musica crossover del mondo. E della tradizione anche un po' ebraica, no? Perché la musica klezmer, sì, ricordiamo. Tutto l'emozione e anche il fatto la danza, perché c'è una musica che fa danzare la gente. Allora, ricordiamo che questa sera si chiude il Festival di Pietrasanta in concerto a Pietrasanta, l'appuntamento alle 21:30 al Duomo. Abbiamo sentito, come al solito, Michael Gutman, che anche quest'anno si è preso la briga e l'onere di organizzare questa rassegna. Grazie. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci. Va in scena in questi giorni Segreti d'Autore, il Festival dell'Ambiente, delle Scienze e delle Arti, diretto da Ruggero Cappuccio, giunto alla sua seconda edizione a Serramezzana in provincia di Salerno fino al 12 agosto. Allora, buon pomeriggio e benvenuto a Ruggero Cappuccio, che ricordiamo è anche un grandissimo regista di opere teatrali. Che cosa sta succedendo appunto in provincia di Salerno e che cosa ci riserva fino al 12 agosto? Noi volevamo fare un festival che fosse un luogo di riflessione, un luogo in cui la scienza, in cui il teatro, la letteratura e il cinema si incontrassero e che fosse un festival molto dialogato con le persone che lo seguono. Il 25 luglio abbiamo avuto l'Associazione Nazionale Magistrati che ha messo in scena con i magistrati, con 7 magistrati della Procura di Salerno, Paolo Borsellino essendo stato, è un lavoro che io scrissi per Massimo De Francovic alcuni anni fa e che debuttò al Piccolo Teatro di Milano, che si è ritrovato poi nella singolare condizione di essere recitato dai magistrati. Sono stati i magistrati, con in testa il procuratore capo Franco Roberti, il quale fu collaboratore di Falcone e di Borsellino tanti anni fa, sono stati i magistrati a chiedermi di voler dire in scena queste parole, di testimoniare le parole che furono scritte per Paolo Borsellino. Poi 3 giorni dopo c'è stato invece un progetto sugli orti della dieta del Mediterraneo. È un'iniziativa singolarissima, la dieta del Mediterraneo è stata riconosciuta dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ed è stato proprio il Cilento a rappresentare l'Italia per quel che attiene appunto gli estremi della dieta mediterranea. Gli orti del Mediterraneo è stata un'iniziativa molto particolare in cui si è raccontato come fondamentalmente qualsiasi persona al mondo può costituire a casa sua un piccolo orto che avvicini maggiormente le persone ad una alimentazione biologica, ad un'alimentazione sana. In tre abbiamo Alessio Boni che viene a parlarci di un suo singolarissimo film, questo film si intitola Sinestesia, il regista è Eric Bernasconi, questo film non è ancora uscito nelle sale, quindi è una vera anteprima, quella che riusciamo a proiettare a Serra Mezzana, ed è un film sui diversamente abili, è un film che indaga sulla diversità dei linguaggi in qualche modo, e Alessio Boni verrà a raccontarci insieme ad Eric Bernasconi come è nato il film, quali sono state le ragioni che li hanno spinti a impegnarsi in una battaglia produttiva anche molto complessa. Il giorno 5 un altro tra gli appuntamenti fondamentali di questo festival è quello con Claudia Cardinale, che viene nella tenuta del principe di Belmonte, sempre nel Cilento, a pochi minuti da Serra Mezzana, a raccontarci il cinema com'era, il cinema com'è. E alla Cardinale in quel frangente sarà consegnato un premio che Mimmo Paladino, il grande scultore italiano Mimmo Paladino, ha voluto personalmente dedicarle. Poi si va avanti con un appuntamento molto singolare, viene messo in scena un racconto di Marguerite Yourcenar che ha per titolo Anna Soror, è un racconto tra i più belli della grande scrittrice, pochi sanno che una buona parte del racconto fu ambientato nel Cilento e questa è la ragione per la quale l'abbiamo scelto, perché il racconto è ambientato in Agropoli e in Pestum intorno alla metà del 1400. Altro appuntamento importantissimo è quello con il concerto vocale e strumentale di Roberto De Simone che avverrà il giorno 8, mentre il 12 Silvio Orlando verrà a parlarci della legalità attraverso la proiezione del film Il portaborse. Insomma, c'è molto da vedere, ma noi ci risentiremo poi nel corso del festival. Ma naturalmente. C'è anche un appuntamento interessante che è la proiezione in anteprima di un Don Chisciotte realizzato e prodotto dalla RAI con Roberto Erlitzka e Lello Arena, naturalmente entrambi rispettivamente nel ruolo di Don Chisciotte e Sancho, e Lello Arena verrà a raccontarci questa sua esperienza attraverso questo personaggio immortale di Cervantes. Allora ringraziamo Ruggero Cappuccio perché ha organizzato, ha diretto il Festival dell'Ambiente delle Scienze e delle Arti Segreti d'Autore a Serra Mezzana in provincia di Salerno fino al 12 agosto. Un'ultima domanda, a che ora sono questi incontri? Dunque generalmente cominciamo alle 20 e le proiezioni vere e proprie, le spettacolazioni vere e proprie cominciano alle 21. Tutte le serate sono sempre intersecate da avvenimenti che riguardano poi la presenza di scienziati, vulcanologi, esperti di fauna marina, quindi gli appuntamenti sono sempre molto stratificati, si comincia alle 20, si finisce in genere verso le 23:30. E adesso andiamo ad Ancona, all'Anfiteatro Romano, alle 19. Questa sera va in scena Fuochi, una lettura scenica da Marguerite Yourcenar e a cura di Adriana Stecconi. Buon pomeriggio Adriana, chi va in scena e che opere andranno in scena di questa famosissima scrittrice? Buon pomeriggio, dunque vanno in scena delle letture tratte da un suo splendido libro minore, meno conosciuto, che è intitolato Fuochi, Feu, proprio Fuochi anche in francese, che sono dei racconti per lo più basati sul mito classico che riguardano Antigone, Clitennestra, Fedone, Patroclo, sono riletti in un qualche modo, in una maniera un po' novecentesca, tipica della Yourcenar degli anni 30, perché poi questo è un suo libro giovanile. E chi va in scena? Sono quattro ragazzi del Centro di Formazione dei Teatri Antichi Uniti TAU dell'AMAT, che l'AMAT è il circuito teatrale regionale di Ancona che gestisce lo spazio all'anfiteatro. Questi giovani fanno parte di un gruppo che lavora con me da vari anni e nell'ordine, se vuoi che ti dico i nomi, si chiamano Marco Mondaini, Claudio Cignitti, Giovanna Grilli e Laura De Carlo. E poi ci sarà anche un accompagnamento musicale live. Ecco Adriana, tu hai parlato di giovani. Sì. Questi giovani quanti anni hanno e chi interpretano nel corso di questo spettacolo? Ciascuno ovviamente legge un personaggio. I personaggi sono Antigone, che viene interpretata da Giovanna Grilli, poi ci sarà Fedone, che è interpretato da Marco Mondaini, poi ci sarà Patroclo, interpretato da Claudio Cignitti, e Laura De Carlo, che interpreterà Clitemnestra. In realtà sono delle divagazioni sul mito, non sono proprio dei monologhi sul personaggio, è tipico della Jursenar. È una lettura scenica abbastanza affascinante. Io ci ho lavorato parecchio a tagliare, perché poi non si può fare una lettura scenica troppo lunga, sono racconti anche un po' corposi, è una lettura non facilissima. Quindi ci stiamo già lavorando da parecchio per provare. Ecco Adriana, ma qual è il personaggio che a te piace di più? Perché Clitemnestra, no, ha sempre avuto questa fama di cattiva, forse è quella più interessante. Infatti il monologo comincia: signori della corte, cioè lei è davanti a un tribunale e spiega, e poi finisce con una battuta per me stupenda: non si può uccidere un morto, perché di fatto questo Agamennone è grasso, che torna da Troia così invacchito in qualche modo da anni di bagordi, per lei è già un morto. Insomma, è bellissimo come penso, ma sono tutti molto belli. Ecco, ricordiamo per gli ascoltatori chi era Clitemnestra, che era appunto la moglie di Agamennone, che Agamennone ritorna, uccide lui. Bello, fa uccidere dal suo amante Egisto, che poi era giovane, era un suo nipote, e quindi lei praticamente istiga il povero Egisto ad uccidere Agamennone. Comunque sono dei racconti e anche molto uccide forti. Cassandra, tra le altre cose, che era il bottino, sì, certo, di guerra. Perché la povera Cassandra ci rimette le penne arrivando non sapendo, cioè sapendo come lei sapeva sempre tutto prima, però non poteva evitare. Allora no, ecco, quindi sì. Insomma, ecco, ti ho parlato di Clitemnestra perché è sempre stata questa figura, no, l'anti Penelope, sì, tra le altre cose. Esatto, sì, tutto un altro genere. Comunque sono tutti racconti, devo dire che sono si potrebbe fare una serie di letture da questo libro, perché ne ho scelti quattro per avere poi un'unità teatrale, diciamo, che abbia una certa valenza, però si potrebbero leggerne anche altri, insomma, sono tutti molto belli, c'è uno su Sappho, ce n'è uno su Fedra, ovviamente poi dopo si sceglie anche in base. Sarà il tuo prossimo lavoro, allora ricordiamo Adriana Stecconi, Cura Fuochi, una lettura scenica da Marguerite Jursenar, in scena Quattro Giovani, sì, ad Ancona, all'Anfiteatro Romano, questa sera, lunedì 30 luglio, alle ore 19. Grazie. Grazie, buona serata. Ciao, ciao. E noi adesso andiamo a Cortona, sì, al Cortona Mix Festival, che si sta svolgendo proprio in questi giorni fino al 5 agosto. Moltissimi gli appuntamenti per quanto riguarda questo luglio, tra cui anche un'autrice di un libro abbastanza particolare, perché diciamo così colpisce i nostri sentimenti. Si chiama proprio Vergogna questo libro e lei è Gabriella Turnaturi. Buongiorno, buon pomeriggio Gabriella. Buongiorno. Che cosa parla il suo libro? Guardi, io ho cercato il sottotitolo di questo libro, è Metamorfosi di un'emozione, perché intanto volevo sottolineare che rispetto a ciò che sentiamo, dire, leggiamo, non c'è più vergogna, è scomparsa la vergogna, ci tenevo innanzitutto a dire che le emozioni non scompaiono mai, non muoiono, ma tutt'al più si trasformano. E questo è successo anche alla vergogna. Volevo individuare che cosa nelle nostre società contemporanee provoca vergogna e come questo sentimento sia diventato più debole, o come ho scritto, una vergogna fai da te. dove per vergogna fai da te intendo che ognuno stabilisce i propri confini, i propri criteri e il proprio pubblico a cui deve rendere conto. Cioè che la caduta della vergogna a livello collettivo sta a indicare la caduta di un sentimenti condivisi, di valori condivisi, di ideali condivisi. Cioè ognuno risponde solo alla propria repubblica. E lei chiaramente ha scritto un saggio, non è un romanzo? No, è un saggio però che fa un larghissimo uso della letteratura, come devo dire in tutti i miei libri, perché penso che attraverso i romanzi e la narrativa noi impariamo moltissimo su noi stessi, sugli individui, sulla società, forse molto di più di molti testi delle scienze sociali. Ecco, voi vi riunite a Cortona, parlate di libri, c'è questa atmosfera, alle 18 l'appuntamento con lei è al Palazzo Casali, mentre ricordiamo che alle 19:30 ci sarà anche un altro appuntamento al Centro Sant'Agostino, coordinato poi dalla nostra Alessandra Tedesco. Che cosa fate? Fate una tavola rotonda sui libri? Dunque, questo sarà un incontro con Remo Bodei e con Massarenti, perché come dire, in qualche modo tutti e tre abbiamo indagato su comportamenti individuali e collettivi della contemporaneità. Il titolo sarà sulla vergogna e l'indignazione, tema che è caro sia a Bodei che a Massarenti e che io ho trattato nell'ultimo capitolo, che ha un titolo forse un po' paradossale perché è il buon uso della vergogna, dove sostengo che la vergogna può tramutarsi in indignazione e quindi dare inizio ad un cambiamento. E noi lo speriamo anche per quello che sta avvenendo in Europa, no? Abbiamo avuto anche il movimento degli indignati in Spagna, vediamo che cosa succede. Allora ricordiamo Vergogna, il libro di Gabriella Tornaturi, edizioni Feltrinelli, che verrà presentato al Cortona Mix Festival in provincia di Arezzo questa sera alle ore 18 a Palazzo dei Casali. Grazie. Grazie a voi. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Antonella Migliaccio in redazione. Vi ricordo l'appuntamento con Summertime domani alle 16 e poi domani mattina invece quello con il GR Spettacoli. Un saluto da Elisabetta Fiorito.